Siamo vento che soffia, legna che alimenta, calore che cresce, fuoco che divampa, sangue che bolle, flusso che scorre, tempo che non passa mai, tempo che scorre. Siamo virgole di un infinito discorso, trascenderebili sullo stesso percorso, disadattati che non trovano posto. Siamo pioggia patente che cade a ferragosto, legge costituita e poi sabotata, regola istituita e bruscamente sovvertita, vita lotta condotta in prima linea. Siamo tradizione che resiste, filo rosso che continua. Siamo tutto e se tutto è stato detto e fatto, siamo un'occupazione che resiste ad ogni strato, come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente ma sapremo essere tutto, sono tutto quello contro di cui combatto, sono la sfida da cui quotidianamente vengo attratto. Di fatto sembra ostile e vincente, sembra siamo tutto ma in fondo sono niente. Allora, eccoci in diretta di nuovo su Radio Default. Questa è Ops Connecting Fights, la trasmissione appunto a cura di Occupazioni Precari Studenti. Oggi una trasmissione appunto in cui parleremo di diverse cose. Innanzitutto del presidio che ci vede impegnati giù in quel di Roncigliano come Occupazione Precari Studenti, presidio appunto nato contro un fatto montato davanti alla discarica di Albano e quindi davanti al luogo in cui vorrebbero costruire tra l'altro l'inceneritore di Albano, che sarebbe nelle loro intenzioni l'inceneritore più grande d'Europa. Un presidio iniziato una settimana fa, esattamente sabato scorso, e un presidio che ha visto, diciamo, la partecipazione di tanta gente, di molti cittadini del luogo, e iniziato sabato scorso con un'assemblea molto importante con il comitato Non Muos di Roma, quindi con dei compagni e delle compagne siciliane che partecipano appunto all'attività dei Non Muos di Niscemi, che però vivono a Roma e che quindi hanno portato quell'esperienza qui da noi. Un'assemblea anche quella molto partecipata, e a quell'assemblea poi sono eseguite diverse iniziative, concertini, spettacoli, e dopo una settimana si pensava all'inizio di rimanere esclusivamente fino al 7, perché il 7 che c'era praticamente la pronuncia, la sentenza del Consiglio di Stato rispetto alla sospensione del cronoprogramma per la costruzione dell'inceneritore. Il Consiglio di Stato ancora una volta si è dimostrato per quello che è, quindi un organo assolutamente politico, che è andato a bocciare quindi questa sospensiva, per cui fino alla prossima udienza del TAR di fatto Cerroni con la sua pontina ambiente potrebbero in qualsiasi momento iniziare i lavori per la costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti. Un atto ancora una volta gravissimo, e diciamo dopo quella sentenza noi insieme ai Noinc presenti sul luogo, insieme ai cittadini del villaggio ardeatino, appunto abbiamo deciso di rimanere e di mantenere il presidio, appunto come forma di opposizione diretta a questa decisione, in qualche modo, per appunto dimostrare una pressione continua sia sugli organi competenti, dagli organi appunto giuridici, giurisdizionali, come si dice, fino appunto al comune, fino alla stessa Pontina Ambiente, alla stessa proprietà della discarica e del secondo loro futuro inceneritore. Cose sicuramente, come molti cittadini del luogo ci hanno raccontato, comunque il presidio serve, perché effettivamente non è un caso in qualche modo che discarica e inceneritore siano state costruite lì. Molti appunto sottolineano, degli abitanti del villaggio ardeatino che partecipano a questo presidio e che da sempre partecipano alla lotta contro l'inceneritore, come quel villaggio così, sia appunto un villaggio, una zona, un quartiere in qualche modo, un quartiere dormitorio, abitano all'incirca 800-900 persone, molte famiglie, però sono delle famiglie che vivono in maniera molto limitata quel luogo, questo perché è un luogo privo di qualsiasi spazio di socialità, è un quartiere comunque grande, un quartiere in piena campagna al fianco dell'Ardeatina, che non ha neanche una piazza. Quindi il presidio in qualche modo ha visto, è stato importante proprio per questo, perché ha dato non solo visibilità alla lotta, quindi alla lotta contro l'inceneritore e alla lotta contro la discarica, ma ha dato anche uno spazio di socialità alle persone che abitano quel territorio. Siamo proprio davanti al settimo invaso, dal presidio vediamo dall'altra parte dell'Ardeatina, vediamo proprio il terrapieno che è nato negli anni. Anzi, l'anno scorso è stato tirato su con la terra di risulta del settimo invaso, un terrapieno, una collina che loro vorrebbero, hanno tentato di abbellire con degli alberelli, dei cespugli, ma che appunto non ha convinto comunque nessuno questa cosa, e tanto che non solo tutti si lamentano lì per il fatto che questo terrapieno alto quasi 30 metri ha coperto completamente quella che era la visuale classica di quel luogo. Quindi dal villaggio prima si vedeva Monte Capo addirittura, adesso appunto si vede questa collina assolutamente artificiale, e da lì proprio perché siamo a 50 metri neanche dal settimo invaso, sentiamo una puzza, diciamo, incredibile in continuazione, soprattutto soprattutto la sera, soprattutto dopo cena. Questo fa sospettare a molti che dopo cena ci siano alcuni, magari aprono l'impianto di ETMB o comunque fanno qualche lavoro di movimentazione dei rifiuti, per cui la puzza che diciamo arriva di solito a seconda del vento, a quell'ora arriva anche perché in qualche modo lavorano coi rifiuti o fanno qualcosa che non sappiamo bene che cos'è. Tant'è che l'altro giorno proprio è arrivata questa puzza anomala, e alcuni abitanti di giù hanno deciso addirittura di chiamare la polizia per denunciare agli organi competenti, non solo gli organi di polizia ma anche alle strutture sanitarie, appunto, questa puzza anomala. La polizia ha risposto con un semplice: non abbiamo macchine per scendere in questo momento, e quindi autonomamente i cittadini di lì hanno deciso di andare verso le 10 di sera a citofonare alla discarica per appunto urlare tutta la loro rabbia, la loro indignazione per questo, questo fatto. Quindi sono delle cose piccole, potrebbero sembrare delle cose piccole, insignificanti, ma invece sono molto importanti, perché comunque si esercita una pressione continua sulla proprietà della discarica e su Cerroni, sulla Pontina Ambiente, appunto, che si rendono conto che i cittadini sono disposti, appunto, a mettersi in gioco in prima persona, prevalentemente soprattutto i cittadini di giù, perché non ce la fanno proprio più ad andare avanti in questa condizione. Un'altra cosa importante che è stata fatta durante il presidio, soprattutto nei primi due giorni, i primi due giorni di questa settimana, quindi lunedì e martedì, è stato il monitoraggio dei camion in entrata e dei camion in uscita. Quindi siamo stati lì, nonostante il maltempo, dalla mattina presto fino all'ora di pranzo. I camion in realtà scaricano ininterrottamente dalle 6 di mattina fino alle 7 di sera. E nelle ore in cui abbiamo fatto il monitoraggio, quindi all'incirca dalle 8 a mezzogiorno, dalle 8 all'una più o meno, in tutta la mattinata, l'arrivo dei camion è continuo, arrivano camion di tutti i tipi, molti i camion naturalmente dei castelli, soprattutto della città di Pomezia, ma non solo, ma moltissimi, come sappiamo, anche i camion che provengono da Roma, i camion, quindi i compattatori, quindi dell'azienda che gestisce i rifiuti romani, cioè dell'AMA, che da quando Malagrotta ha iniziato a chiudere, grazie al decreto Clini, al decreto quindi del ministro dell'ambiente del governo Monti, appunto, i rifiuti di Roma sono stati spostati e spalmati sulle discariche della provincia, prevalentemente su quella di Albano. Quindi un monitoraggio con quei dati, poi a breve cercheremo anche di fare una piccola inchiesta e comunque di diciamo di metterli insieme per appunto pubblicizzare e comunque dare spazio a quello che succede, quanti sono i rifiuti che vengono trattati e non trattati lì come teoricamente dovrebbe essere. Quindi adesso andiamo un po' di musica e poi continuiamo, parliamo delle iniziative di stasera. Vi ricordo che oggi, diciamo, la puntata di Ops non parlerà soltanto del presidio, ma parlerà anche di altro. Ci collegheremo infatti telefonicamente a breve, dopo aver finito appunto la parte relativa al presidio, alla questione non inceneritore e non discarica. Ci collegheremo telefonicamente con due compagni dell'ex QM di Milano, che ci racconteranno quello che è successo in questi giorni proprio all'Università, alla Statale di Milano, dove, come sappiamo, uno spazio autogestito da studenti e studentesse è stato brutalmente sgombrato dalla polizia con il beneplacito e anzi su richiesta della dirigenza del rettore di quella università. Parleremo poi anche di quello che succederà domani a Roma, dove, come molti sanno, domani è 12 maggio. Il 12 maggio 1977 a Roma viene uccisa Giorgiana Masi. Domani purtroppo qualche infame ha deciso di fare una manifestazione, di indire una manifestazione in quella giornata contro l'aborto, e quindi una manifestazione che loro chiamano Marcia per la vita, fatta da diverse organizzazioni cattoliche, ma anche da molte organizzazioni fasciste. Quindi ne parleremo a breve, e intanto mandiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare del presidio. Thank you. Which is righteousness. So don't get a lick. We no look and know. Jaja city, Jaja town. Them want to turn it in a cowboy town. Aye. We no look and know. Bloody city, bloody town. Want to turn it in a rude boy town. Aye. We no look and know. Them a tell me how them call. Big 45 we shoot out them brother mole. No fussy them cold like up at the North Pole. So them shoot down the young. Shoot down the hole, shoot down the puss and all the dog and the fall. Every weekend them take our next payroll. Out a man pocket them shoot out bill fall. This Marcus have enough feather figure roll. Look here now, Georgia City, Georgia town. Them have it on it in a cowboy town. Aye. Look here now, Georgia City, Georgia town. Them have it on it in a dead man town. Aye. Them think them reach the ultimate, yo, but them no reach nowhere yet. Oi, them get caught in the internet. A society, I tell me them a intellect. Them promote too much debt. Who no look and know? Jaja city, Jaja town. Them a turn it in a bad man town. Oi, who no look and know? Jaja city, Jaja town. Them a be turn it in a cowboy town. Oi, Marcus Garvey say 10 miles out of the city. Oi, it a go get too shitty. One Mr. John amigo, one Miss Mitty. One all the shot amigo, one all the hitty. No for say them kill man without pity. Wrong kind of sip me, I'll go catch them a sippy. Chew them, licky licky them sicky. Rastafari, judgment we slew all. Yo, Jaja city, Jaja town. Them a turn it in a cowboy town. Aye, look at them. Bloody city, bloody town. Turn it in a rude boy town. Aye, aye. Send me go chat down in the east. Tell them to hold the peace. We no want no more coffin. We no want no more eat. We life we are promote for the ghetto youth seat. Life you know feverish. We no watch and know. Jaja city, Jaja town. Them man fi turn it in a dead man town. Aye. We no look and know. Bloody. Oh yeah. Allora, torniamo in diretta, sempre su Radio Default, questa è sempre Ops Connecting Fights. E allora, come dicevo prima, appunto, finiamo la parte relativa al presidio che ci sta impegnando appunto davanti alla discarica di Albano, ricordo via Ardiatina, chilometri 24 e 600, prendendo l'Ardiatina o da Santa Palomba e andando verso Ardi, appunto lo vedete, perché si vedono le bandiere, si vedono gli striscioni, e questo è un'altra cosa, diciamo, molto importante, dare visibilità comunque a una lotta, ma dare visibilità proprio al fatto che lì c'è una discarica. Quella è una strada trafficatissima, un'arteria molto importante della provincia di Roma, e molti passano davanti a questa, come dicevo prima, collina artificiale e non sanno neanche che lì c'è una discarica, ci sono sette invasi e non sanno neanche che lì appunto vorrebbero costruire l'inceneritore più grande d'Europa. E che stasera, come detto, il presidio è continuato, nonostante voleva all'inizio, era partito da sabato scorso e voleva essere interrotto il 7 maggio, abbiamo deciso di continuare insieme agli abitanti di giù e stasera ci sarà appunto uno spettacolo teatrale, uno spettacolo di Paolo Pescenanna che ringraziamo vivamente. Tra l'altro Paolo Pescenanna che insieme a Rosso Malpelo, proprio quando noi di Occupazioni Precari Studenti abbiamo occupato simbolicamente il teatro a dicembre, quindi ormai sei mesi fa quasi, venne diciamo a fare uno spettacolo proprio a chiusura della tre giorni di occupazioni. Quindi ci sarà questo spettacolo comico e dopodiché ci saranno, diciamo, ci sarà una jam session, degli spettacolini, un po' di teatro, quindi iniziative varie per riempire e dare ancora più senso appunto a quello spazio, come abbiamo detto è uno spazio non solo di lotta, soprattutto di lotta, uno spazio nato per dare visibilità a questa lotta, ma anche uno spazio di socialità importante per tutte quelle persone che abitano quel luogo. Verso le 7 poi faremo anche una piccola assemblea anche di gestione del presidio, ma una piccola assemblea proprio per capire come continuare, vedere come si può continuare questa battaglia, soprattutto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato. Oggi avremmo dovuto mandare in diretta durante la trasmissione anche alcune interviste che abbiamo fatto in questi giorni a degli abitanti del villaggio Ardatino di Roncigliano e quindi di quei villaggi, di quei quartieri limitrofi alla discarica. Per alcuni problemi tecnici non le mandiamo in onda adesso, ma le manderemo in onda appunto o domani, se facciamo la replica domani, o in settimana. Comunque delle interviste molto interessanti in cui gli abitanti di giù ci hanno proprio raccontato di come il territorio, un territorio a vocazione agricola, sia stato veramente violentato dalla discarica che ormai ha quasi 30 anni e come appunto vorrebbero violentarlo ancora di più con questa con questo impianto industriale. Un territorio, ci dicevano, che non vive solo il problema della discarica, ma vive tanti altri problemi. Naturalmente legato alla discarica c'è sicuramente l'inquinamento atmosferico, perché la puzza non è solo un problema di cattivo odore, ma anche un problema di salute evidentemente, ma c'è anche un problema legato alle acque. Le acque di quella zona sono inquinatissime, tant'è che il coordinamento sta facendo delle indagini proprio relativamente alle acque, ed è notizia di questi giorni che sembra sia partita anche un'indagine da parte del Tribunale di Velletri, visto che molti cittadini di lì ci hanno raccontato che appunto i NOE stanno facendo dei prelevamenti nelle case, purtroppo per ora solo nelle case a monte, diciamo, no? Quindi nelle case che hanno meno problemi legati per quanto riguarda la qualità delle acque, però piano piano sembra che stanno scendendo giù. Comunque stanno facendo i NOE dei prelevamenti e si spera appunto che ciò possa portare a qualche risultato a breve. E altri problemi non sono, diciamo, quindi il problema della discarica, il problema dell'acqua. Lì vicino c'è una discarica di amianto, ci ricordavano appunto cittadini di giù, una discarica enorme di amianto, e come sappiamo non è una discarica perché l'amianto non può essere smaltito, ma è appunto un sito di stoccaggio, quindi è assolutamente pericoloso. Ci sono moltissime discariche abusive e poi c'è il polo industriale di Santa Palomba lì vicino. Appunto ci sono la Johnson, la Procter & Gamble, quindi delle industrie altamente inquinanti, industrie chimiche altamente inquinanti, che tra l'altro, molte delle quali tra l'altro sono in crisi, o dicono di essere in crisi, quindi anche questo ci hanno raccontato, no? Molti degli abitanti di lì lavorano in queste fabbriche, ci sono alcuni che lavorano alla Fioruccia, alcuni che lavorano appunto alla Procter, e quindi ci hanno raccontato della crisi di queste fabbriche, come diciamo la disoccupazione in questa zona tocchi livelli altissimi, quindi vivono la crisi due volte in qualche modo, una crisi ambientale e una crisi economica fortissima. Proprio la Fiorucci, che sta sempre lì vicino, ha da poco deciso di mandare in esubero quasi 250 dipendenti, quindi si avvia molto probabilmente alla chiusura, quindi una situazione molto difficile, aggravata appunto da questa decisione, da questa scellerata decisione di voler costruire lì il più grande inceneritore d'Europa. Ricordiamo, un inceneritore per cui il privato, cioè la Pontina Ambiente, avrebbe dovuto ottenere 400 milioni di euro di finanziamenti pubblici, che poi, grazie all'annullamento dei CIP 6, dei cosiddetti CIP 6, da parte dell'Europa, questi soldi pubblici non sono più arrivati a Cerroni e alla sua Pontina Ambiente. Un po' adesso la partita si gioca evidentemente su quello. Il privato in questione, come tutti i privati che in Italia hanno costruito inceneritori, ma come è un po' la storia che si ripete per ogni opera inutile in questo paese, il privato in questo caso non costruirebbe molto probabilmente quest'opera senza un finanziamento pubblico, e quindi la partita si gioca molto anche su quello. E quindi niente, stasera appunto ricordo le iniziative, spettacolo teatrale di Paolo Pesce, assemblea prima dello spettacolo alle 7, c'è poi una cena a prezzi assolutamente popolari, e diciamo una cena come tutte le cene che ci hanno preparato Aldino, Gigi, che saluto, Giuliano e tutti gli altri del villaggio, delle cene molto ma molto buone, quindi partecipate numerosi e veniteci a trovare a Via Ardeatina, chilometro 24 e 600. Adesso mandiamo un po' di musica ancora, e poi passo il microfono a Giacomino, che ci parlerà dell'ex QM e si collegherà appunto con dei compagni di Milano che ci racconteranno questa appunto quello che è successo nell'ultima settimana. Always a fuss and fight, all through the night. I've got to get away from here. This is not a place for me to stay. Find a quiet place. Mama, she cried. Oh, Papa, he cried. What did you find them? Babylon, a murderer. Them this the ghetto, you them wrong, ya. Babylon, a murderer. Serious time, violence and crime, and up here gunting the youths and map on the mind. Oh, them bust it when rain a fall. You know, sister, them no care, them ya youth, bust it all when sun a shine. Oh, you know, see up here juvenile, yeah. I'ma lock the big guns out the street. Oh, where them get it from? Nobody know. Them father was a killer. Well, I see him turn them grow. Oh, I know me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. Up here gunshot a beat, me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. I fear blood in the street. Them a youth and a play, no. Every single day. Them have it on them waist, and if you talk too hard, then them shoot off your face. Tell me what I want, me a beg you to keep it calm. The real who are real and I kick up and I go on, it's like a gun storm. Me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. I fear gunshot a beat, me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. I fear blood in the street. Bring back Jamaica, in all the time when everything was fine. Cause all the try, some a try for show love, it seems like the rest of them blind. All rude boys, the master gun, put on the Glock and the 9. Cause you no kill me, Sachin and Mass Brown, and turn the whole place in a ghost town. Me can't sleep, no matter how me try to do it, me can't sleep. Up here, gunshot a beat, me can't sleep. No matter how me try to do it, me can't sleep. Up here, blood in the street. God, this a serious time, violence and crime. man a pay gun thing, the youths them up on their mind. And them a buzz it up, buzz it up. Oh, them buzz it when rain a fall. You know, she said them no care. Pronto? Dario? Ci sentite? Sì, eccoci. Allora. Pronto? Pronto, Dario? Ci senti? Pronto? Ci sono un secondo dei problemi tecnici con la chiamata. Ah, e ci dicono che non ci sentono. Va bene, comunque ci stiamo collegando con due compagni di Milano per parlare dell'ex QM che è stata sgomberata lunedì mattina. E eccoli. E pronto? Ci sentite? Prova. Pronto? E niente, non riescono a sentirci per ora i compagni di Milano. Intanto, per spiegare brevemente quello che è successo, ad aprile dell'anno scorso era stata occupata la libreria QM, che era stata, diciamo così, chiusa in blocco dall'amministrazione universitaria, che quindi, oltre a interrompere tutto il servizio, lasciava proprio al centro della statale appunto questa stanza vuota di 100 metri quadri, 150 metri quadri. E ad aprile dell'anno scorso, appunto, gli studenti e le studentesse hanno dato vita alla libreria autogestita ex QM, che cercava anche di andare un po' oltre, dando vita a dei percorsi e diciamo delle attività che sono servite, diciamo, a livello sia pratico sia di, insomma, di stimolazione di una coscienza, insomma, di come punto di riferimento, anche semplicemente ribadiscono spesso i ragazzi che la gestiscono, insomma, anche per pranzare, per avere un punto di riferimento, un momento di socialità, per fare le fotocopie e magari quant'altro. E appunto lunedì mattina hanno subito lo sgombero, che più che uno sgombero in modalità classica, insomma, è stato, diciamo così, uno sgombero un po' atipico, perché quando sono entrati, come ogni lunedì mattina, nella libreria hanno trovato il nulla eterno, cioè una desolazione penso devastante, perché gli avevano tolto addirittura il pavimento, oltre tutti gli scaffali e qualsiasi altro tipo di strumento avessero lì dentro. Chiaramente la reazione è stata immediata, si è convocata subito un'assemblea, da lì i partecipanti e le partecipanti, che comunque erano molto numerose, hanno, diciamo così, deciso che comunque non poteva finire così. E sono usciti dall'università in corteo, infatti, il giorno dopo, da un'assemblea nell'atrio. Sono poi rientrati nella libreria, che a quanto pare ancora riescono a tenere, diciamo così, aperta, e stanno chiaramente rifacendo i lavori. Adesso magari proviamo a richiamarli e sentiamo un attimo. Insomma, ci raccontano un po' la loro esperienza e magari ci raccontano bene le cariche che ci sono state dentro la statale, che ha richiesto con forza il rettore Vago, se non mi sbaglio. Senti, proviamo a mandare un'altra musica. Intanto vi lasciamo con una canzone e subito dopo proviamo, insomma, a collegarci con i compagni di Milano. accendi Skype, perché Skype? I ask them to, I know they still have some evil purpose in mind. Wanna me? Oh yes. I'm not sure if I really live to see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows, bodies like cold as gunmen strike bold, and the wicked people work is taking off like an arrow. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrow, bodies like cold as gunmen strike bold. Ehi, ci sentite? Sì, tu ci senti, Dario? Adesso sì, perfetto. Ah, a posto, ecco, allora siamo finalmente collegati con i compagni di Milano dell'ex-QM. Io ho fatto, diciamo così, un breve accenno a quello che è successo e quindi innanzitutto vi chiederei a voi, insomma, di dettagliarlo un po' di più e di spiegarci, insomma, questi giorni, insomma, cosa è successo, le cariche, la rioccupazione, insomma, tutta la vostra esperienza. E, vabbè, partiamo appunto da lunedì, nel senso che durante il weekend il rettore Gianluca Vago aveva sgomberato la libreria ex-QM, e non solo sgomberandola ma totalmente devastandola e saccheggiandola, come abbiamo detto in questi giorni, cioè spaccando muri e facendo buchi per terra e levando tutto quello che c'era dentro e distruggendo tutto. Dopodiché con gli studenti della QM, ma con gli studenti della statale, abbiamo iniziato a fare diverse attività in tutto l'Ateneo, e nel pomeriggio si era occupata un'aula libera della statale, che non era semplicemente vuota ma veniva dedicata ed era stata dedicata ad ospitare delle piccole installazioni di interni del Salone del Mobile, che è uno degli unici grandi interessi della statale di Milano, cioè dare soldi e spazi ai privati, e quindi in questo caso al Salone del Mobile. Quindi ci è sembrato giusto simbolicamente occupare quell'aula dopo lo sgombero della mattina. Dopodiché abbiamo quasi immediatamente ricevuto la notizia dalla Digos, che era presente in massa dentro l'università, che il rettore aveva autorizzato l'intervento e lo sgombero violento da parte della polizia dentro l'università. E un'ora e mezza dopo è entrata la polizia in antisommossa e ha caricato selvaggiamente noi che eravamo lì, eravamo una trentina, fino a portarci fuori sempre attraverso cariche fuori dall'università. In questo parapiglia sono state ferite 4 persone, e con diversi contusi, teste aperte, bracci rotti e insomma diversi contusi, e questa era la situazione di lunedì. Dopodiché in realtà in statale si è innescato un meccanismo veramente molto interessante, pensiamo, di solidarietà, di partecipazione, soprattutto da parte di un buon numero di studenti. Si è aperta un'assemblea permanente che da martedì in poi si è trovata tutti i giorni alle 2 per discutere di quello che era successo, e diciamo fin dal giorno dopo si è iniziata una campagna per le dimissioni del rettore, e perché diciamo si prendesse posizione da parte di tutti coloro che in statale ma anche in città erano contrari a quello che è successo, si esprimessero totalmente, quindi contro la polizia dentro l'università e eccetera. Il meccanismo poi è stato secondo me molto interessante, perché ha anche innescato, diciamo, nuove relazioni con gli studenti, alla capacità di diciamo, ha creato un fatto politico, diciamo, nel senso che si è parlato non solo dell'ex-QM, non solo dell'entrata della polizia università, ma veramente di come funziona l'università oggi, di come gli studenti e le studentesse vivono, della precarietà delle proprie vite. Quindi si è iniziato proprio un meccanismo di connessione, no? di lotta reale, no? Dentro l'università. E questa cosa è durata fino appunto al giorno dopo, in cui abbiamo rioccupato l'ex QM, tra l'altro con un altro momento di tensione per il quale di nuovo la polizia in antisommossa voleva impedire di riportare i materiali e i libri dentro l'università e dentro l'ex QM, e abbiamo dovuto far passare i libri dentro l'università attraverso le grate di una finestra, che insomma è stata un'immagine abbastanza particolare. E dopodiché, da quando siamo rientrati, abbiamo iniziato i lavori e arriviamo alla giornata di ieri in cui volevamo, come se, decretare il fatto che il rettore Vago non, diciamo, non era più ben accetto nell'università dopo il giorno prima aver fatto una conferenza stampa in cui chiedevamo a gran voce il fatto che lui si esprimesse pubblicamente davanti agli studenti e davanti a tutta la città per spiegare il suo operato. E invece lui ha scelto di non presentarsi, invece di convocare un senato e una riunione del senato del consiglio d'amministrazione della statale d'emergenza per approvare una mozione di fiducia sul suo operato e sullo sgombero definitivo degli illegali dell'ex QM. Dopodiché, il giorno dopo, abbiamo semplicemente ribadito in occasione di una conferenza che si doveva tenere in Aula Magna, che non c'è stata, ed è stata trasferita in un'altra sede dell'università, che il rettore non doveva più farsi vedere fondamentalmente, che per tutti i fatti che si erano susseguiti della settimana non aveva più nessuna legittimità politica né in generale di stare dentro l'università, e che noi ne chiedevamo a gran voce le dimissioni, ma soprattutto gli avremmo reso la vita impossibile e gli avremmo impedito di presentarsi nei luoghi pubblici dell'università. E lui, in risposta, ha fatto convocare mezza questura di Milano, blindando tutto il quartiere universitario con più di 12 camionette, e dimostrando ulteriormente che cos'è oggi, diciamo, la gestione del dissenso, la gestione dei meccanismi di mobilitazione. Dopodiché, però, la giornata si è conclusa veramente molto bene e, diciamo, è stata una conclusione della settimana molto importante, perché un'assemblea molto partecipata ha ribadito tutti i punti che si erano discussi la settimana, cioè le dimissioni del rettore e il fatto che la polizia non deve più entrare in università a fare quello che ha fatto lunedì, e che diciamo, i luoghi decisionali di potere dell'università non hanno più nessuna legittimità politica dopo quello che è avvenuto e dopo la rivendicazione di quello che è avvenuto. Dopodiché si è continuata l'occupazione dell'ex QM e si è usciti in corteo attorno al quartiere universitario blindato dalla polizia per dimostrare che comunque gli studenti muovono liberamente per questa città e non hanno paura della militarizzazione. Perché, diciamo, è stata una settimana parecchio intensa. Abbiamo fatto giornate che partivano alle Eh sì. 7 del mattino e si chiudevano a mezzanotte, però ne usciamo veramente molto, molto convinti, molto soddisfatti, anche convinti che il progetto della libreria e l'attività della libreria dentro l'università in realtà si rilancia dopo questa settimana e assume una forza molto, molto grande, diciamo. E chiaramente questo ci fa molto piacere, insomma, e anche vi facciamo i complimenti per come riuscite bene a rilanciarvi, insomma, subendo una repressione, diciamo, così forte e così spietata. E fondamentalmente rispetto a quello che dicevi prima, ti volevo fare una domanda, perché tu prima, insomma, accennavi un po' al processo che ha coinvolto gli studenti che hanno visto, insomma, portarsi via uno spazio che a questo punto, cioè, è evidente che era, diciamo così, fondamentale, era un perno importante per la vita universitaria. E poi, diciamo, chiaramente i discorsi vanno per fortuna anche un po' oltre, e quindi oltre solo, come accennavo prima anche io, a risolvere dei problemi di praticità, insomma, così, o comunque di socialità e appunto di vita universitaria, perlomeno un'esperienza come quella dell'ex QM può dare un'idea, secondo te, di aggressione, insomma, alla crisi, di riappropriarsi degli spazi, di agire in maniera un po' più, ecco, diretta per creare dei punti che siano veramente, insomma, no? Che diano veramente un immaginario alternativo, voglio dire, perché da quello che emerge, insomma, ovunque si possa leggere notizie riguardo l'ex QM, veramente era abbastanza un'operazione a 360 gradi. Quindi, insomma, ecco, io quello che ti vorrei chiedere è proprio un po' da questo punto di vista. Quali passi in avanti sono stati fatti e come l'ex QM in particolare, no, contribuiva e contribuirà, per fortuna, a quanto pare, appunto, a scardinare delle logiche innanzitutto, e ecco, a dare un immaginario di come, no, oggi sia importante avere delle azioni dirette e dei luoghi che permettano appunto di aggredire la crisi che senza ricamarci sopra ci sfonda a tutti. Sì, Ti risponde Maria che così rispondo facciamo a io. due. Sì, perfetto. Ciao a tutti. Dunque, la riapertura in modalità autogestita sin dall'anno scorso ha risposto a quella che era stata la chiusura della vecchia cooperativa, affossata proprio dai debiti e quindi la riapertura di quel luogo è stata una prima risposta alla crisi economica che in università colpisce gli studenti e ce ne accorgiamo tutti, ormai i dati sono forti, sono 60.000 gli studenti che negli ultimi 5 anni si sono ritirati dagli studi, è come se l'intero nostro Ateneo fosse scomparso, 60.000 studenti che sono stati colpiti dai tagli alle borse di studio, dai finanziamenti agli studentati, dagli aumenti dei costi della mensa, gli aumenti delle rette, gli aumenti per i fuoricorso. L'intero progetto di Ex Cuem voleva dare una risposta ed evidenziare queste problematiche attraverso una serie appunto, di risposte di mutuo soccorso, quindi con la raccolta di testi usati nei corsi di esame, con la loro scannerizzazione, la loro consultazione e dunque il loro utilizzo gratuito o offerta libera, proprio per sottolineare il diritto allo studio e condannare fortemente un accesso all'università che diventa sempre più elitario. Altra forte contestazione voleva passare attraverso quelli che abbiamo definito percorsi quindi di approfondimento di quel sapere che per noi non era molto spesso è insufficiente quello che ci viene passato attraverso i corsi d'esame, ci viene richiesto di imparare a memoria senza alcun approfondimento critico. Ecco, questi percorsi volevano sopperire proprio anche a questa mancanza di confronto critico orizzontale che spesso si lega anche proprio alla chiusura di corsi interi, i tagli all'università portano anche a questo. Perfetto, io insomma la risposta è stata abbastanza esauriente, quindi volevo passare ad un'altra domanda, perché proprio ecco riguardo le ultime cose che stavi dicendo te, e quindi riguardo alla creazione, alla stimolazione di un sapere critico piuttosto che di un sapere nozionistico, soltanto funzionale a una produzione o soltanto funzionale a imparare a essere un precario, insomma, cioè come si dice, no? La scuola, l'università sono la prima reale effettiva fabbrica di precari. Un lavoro fondamentalmente fondamentale, il lavoro basilare che un luogo come quello dell'Ex Cuem può svolgere, è proprio quello invece di stimolare un'inversione così di direzione. E noi qui su, diciamo, a Genzano, sul territorio dei Castelli Romani, stiamo cercando di dar vita a un progetto che insomma è più o meno simile, e sarà quello della Biblioteca Popolare a Sada Shakur. E fondamentalmente io vi volevo chiedere, ecco, proprio cioè, come avete svolto il lavoro e come, insomma, che ritorni avete avuto dal lavoro che avete svolto in questo senso? E, diciamo che come abbiamo svolto i lavori, diciamo ci sono varie cose che possiamo raccontare, provo a raccontarle in modo sparso e non so se sarà molto organico. Appunto, come già accennava Marie, cioè il meccanismo che dentro molto spesso funzionava e soprattutto metteva, tra virgolette, in una relazione non da fruitore di servizi e da gestore di uno spazio, ma metteva in relazione gli studenti direttamente dentro lo spazio, era l'offerta libera e diciamo, il meccanismo diciamo, di diciamo, di tendenza sempre più alla gratuità e, diciamo, e al non prezzo dentro la libreria, sia perché metteva proprio in discussione, c'è un paradigma che noi viviamo tutti i giorni, in tutti i luoghi che viviamo, cioè che ogni cosa ha un prezzo, e questa cosa proprio la si notava nella gente che vedeva, ti veniva a chiedere un libro, ti veniva a chiedere le fotocopie, diciamo anche un po' lo stupore, no? del non avere un prezzo e dover decidere da sé, e quindi in modo, come dire, diciamo, personale, individuale, quanto valore può avere un libro, perché io compro questo libro in questa libreria, e quindi, diciamo, mi convince il progetto, comunque appoggio, sostengo e partecipo al progetto dell'Excume, e quindi decido diciamo, di sostenere anche economicamente questo progetto e di autofinanziarlo partecipandoci. Quindi questa è una prima cosa. Poi appunto tutto il dibattito su mutuo soccorso servizi, no? Per cui, tra virgolette, la gestione dello spazio della libreria non è mai stata una gestione da collettivo chiuso, che, diciamo, fruiva che fossero iniziative di presentazione di libri o scannerizzava tutti i testi universitari per tutti gli esami, ma c'era un meccanismo che voleva coinvolgere sempre gli studenti e le studentesse, e quindi per la scannerizzazione dei libri non c'era mai nessun addetto alla scannerizzazione che lavorava dentro la libreria, ma c'era un meccanismo di io cerco questo libro, se c'è qui lo scannerizziamo insieme e poi tu ne scannerizzi altri, ai tuoi compagni di corso, ai tuoi amici, di venire qua a portare i libri, a scannerizzarli e via di seguito. Per cui, diciamo, un meccanismo che, diciamo, a sostituzione di un servizio e di un diritto allo studio che viene a mancare, non sostituisce però una faccia speculare di un servizio alternativo, ma prova a innescare un meccanismo permanente, no? Di partecipazione e di messa in discussione diciamo, di un servizio calato dall'alto, no? Ma di un'area, proprio azione anche dal basso, no? E di autogestione, diciamo, del servizio universitario. E questa è una cosa molto importante. A livello dei percorsi, diciamo che, vabbè, ovviamente con alti e bassi durante l'anno, tra l'altro appunto questo sgombero veniva dopo un mese prima di aver fatto un anno di occupazione della libreria con una 3 giorni abbastanza interessante. Diciamo che il principio dei percorsi voleva anche smontare una modalità, diciamo, o almeno la tendenza è sempre stata ricercare di smontare una modalità, diciamo, un po' militante, no? Di costruire gli eventi di approfondimento e di contenuto, per cui diciamo una modalità che mettesse distanza tra il collettivo di gestione dello spazio e gli studenti che venivano a fruire dell'evento particolare, eccetera, ma la tendenza soprattutto dei percorsi era coinvolgere gli studenti per costruire delle iniziative di approfondimento che riguardassero in prima questione i propri corsi di studio e una rianalisi e una, diciamo, una riappropriazione, anche qui è un riutilizzo del proprio sapere che viene impartito accademicamente con, diciamo, delle connessioni che non vengono mai fatte o degli argomenti che non vengono affrontati in corso. Per esempio, abbiamo fatto dei percorsi sul surrealismo o di questo tipo qua, no? Quindi, diciamo, la tendenza era proprio partire da una riappropriazione della capacità di produrre analisi, produrre sapere, non per forza con diciamo disponendo dell'autorità di poter tenere un corso, e quindi, diciamo, è una cosa che assomiglia molto a un controcorso, comunque una riappropriazione del sapere dentro l'università, ma che poi, diciamo, si è allargata anche sulla, diciamo, la produzione di un altro tipo di sapere e di quello che viviamo noi anche fuori dall'università e di quello che impariamo fuori dall'università, stando nelle lotte, ma non solo, diciamo, sulle questioni, per esempio, di genere o di altre questioni che affrontiamo tutti i giorni, no? E tra virgolette questa cosa a un certo punto gli abbiamo voluto dare un nome, provarci almeno a costruire un nome, un progetto più ampio, e l'abbiamo chiamata Università Clandestina, e diciamo che ha avuto un suo sviluppo e, diciamo, che tra l'altro è stata particolarmente attaccata e presa come scalpo dal rettore, dicendo che noi vogliamo essere antagonisti clandestini. Per spiegarci, per noi la Università Clandestina è, tra virgolette, un'università, diciamo, gli studenti e le studentesse che dentro l'università non accettano più di vivere semplicemente l'università per come gli viene data e ne costruiscono un'altra che entra in conflitto con quella che vogliono loro, fondamentalmente quella del profitto e quella che ti riduce a non poterti permettere di andare di entrarci magari all'università perché le rette sono troppo alte e non solo, ti insegna anche delle cose che non completamente ti servono, non completamente ti soddisfano o ti servono solo per avere un lavoro precario, appunto, come si diceva prima. Per cui l'università clandestina, che diciamo, è stata presa dal rettore Vago come una delle cose più scandalose per lui, noi in realtà ce la rivendichiamo moltissimo come capacità di produrre sapere offensivo, diciamo, si diceva nelle assemblee, e per me è molto questo. Non so se ti ho risposto. Se posso aggiungere una piccola cosa, così nell'ex-QM, come immagino nella biblioteca da voi a Genzano, la condivisione dei saperi è assolutamente un circolo virtuoso di condivisione, e io penso che possa connettere appunto la nostra con la vostra esperienza come con altre, non solo rispetto a appunto con vissuti simili, ma credo che per esempio potrebbe essere proprio bello connettere i lavori e ciò che si sviluppa e ne nasce all'interno. Ad esempio penso a quanto sia potente la possibilità di un archivio digitale che possa essere condiviso appunto non solo dagli studenti di uno stesso ateneo, ma in forma digitale virtuale può connettere appunto ex-QM con Genzano, così come invece appunto la possibilità di creare una radio. Sì, in effetti i percorsi del genere sono veramente più auspicabili. Sicuramente un percorso come il vostro, diciamo così, ci dà fiducia anche a noi su questi, diciamo, strumenti che uno prova ad utilizzare, ecco, come può essere una radio, come può essere una biblioteca popolare, piuttosto che degli archivi, eccetera, che riesca anche a connettere una serie di realtà. Quindi, in effetti, ecco, sconfinando un po' dai ragionamenti che abbiamo fatto, diciamo fino a qui, no? Possiamo, ecco, dire che, cioè, inserire un attimo nel contesto che viviamo, insomma, lo sgombero della libreria a Milano, perché anche a Roma comunque, bene o male, è un periodo, diciamo così, di fermento. Da dopo lo tsunami tour in poi, chiaramente, sono cominciate appunto tutte le attività che hanno fatto partire le occupazioni da quel 6 aprile. E c'è stato lo sgombero di Tor Tre Teste, quindi, come dicevate giustamente anche voi, come c'è, diciamo così, un sentore che, insomma, diciamo, anche in Italia si possa, diciamo così, muovere qualcosa di un po' più avanzato, che sappia, ecco, diciamo così, avere un'offensiva reale, diciamo così, incisiva sui temi della crisi e comunque del debito. Quindi io quello che, ecco, diciamo, entro anche più nello specifico della domanda di prima, no? In tutto questo contesto, un po' così, in cui manca un movimento di massa, di fatto, però le attività sono molte, un'attività come una biblioteca e una libreria, fondamentalmente, no, ecco, il punto a cui deve arrivare è quello di innescare un processo del genere. E le connessioni che voi avete avuto, appunto, ci spiegavate, sono più di natura politica, sì, di natura politica e sociale, diciamo, un po' più ampia. Con chi le avete avute e in che modo? E poi, soprattutto, durante lo sgombero siete stati, insomma, così sostenuti? Cioè, c'è stata una rete di solidarietà? Insomma, come si è innescata e quant'altro? Diciamo, al di là delle connessioni, evidentemente, con gli studenti della statale, e soprattutto, vabbè, certo, questa settimana, ma diciamo, poi quando, diciamo, alcuni gruppi, diciamo, della statale che però partecipavano da tempo alla libreria, per esempio, c'è, cioè, il collettivo di Atenea Rivolta che partecipa dentro, o i compagni del cantiere che stanno dentro la libreria da molto tempo. Al di là, diciamo, di alcune presenze, diciamo, già universitarie, diciamo, secondo me è abbastanza rappresentativo di alcuni eventi che abbiamo costruito. Io parto da quello che abbiamo avuto proprio ieri sera, in cui abbiamo fatto un'assemblea di conclusione della settimana che avevamo, diciamo, che era stata organizzata prima in cantiere, che poi è stato spostato in statale, in cui sono stati invitati questi compagni di una fabbrica recuperata in Grecia, diciamo una fabbrica autogestita. People work is taking off. I'm not afraid to die, but afraid to live until death. It's not hard for you to guess what will happen next. Heartaches and pain, works upon godliness. Some don't know why them a live, that's why them have to hurt the flesh. But who are they? Tell me, what they represent. I struggle with fear as I experience. So them do them dirty works, to which I resent. And no one but them are gonna face the consequence. They build walls instead of bridges. It's ridicule. Then war with whom they live like a fool. But if I drive the wrong road, away I want to pull. Because the vessel of the iniquity never yet full. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. Bandits lay cold and gunmen strike bold. And wicked people work is taking off like an arrow. I wonder if I will see tomorrow. Conflicts and sorrows, bodies lay cold, as gunmen strike bold, and wicked people work is taking off. Oh yes, that burning concern is no longer there. They're filled with the medicine where Babylon prepare. Instruments of cruelty, presence everywhere, strong enough to tame life, but not enough to cure. As the road gets dark, I expect anything. I know not many miss, so it leaves no wondering. Many life was lost, who is the next victim? It could be you, it could be I, to all them set the system. Them kill without the cause, what is the meaning? So, no one knows what tomorrow may bring. I'm not sure if I will live to see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. Bodies lay cold as gunmen strike bold. And the wicked people work is taking off like an arrow. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. Bodies lay cold as gunmen strike. Work is taking off, hold on. They are filled with corruption and selfishness, overload with bitterness and wrath. So I have to seek to keep myself away from the wicked on the road they walk. Oh yes, them sow seeds of conflict. They want to see me trick, but that not go fest on my heart. Because I dwell in a just light and do what is right. Don't want it to be said that I never pay my part. I derive with enemies and I am my brother's keeper. What have I done? Them no office in me prosper. Push on this load as they make it heavy. And yeah, it's only sorrow the wicked have to offer. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of sure. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. Bodies lay cold as gunmen strike bold. And the wicked people work is taking off like an arrow. I wonder if I will see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. Bodies lay cold as gunmen strike bold. And the wicked people work is taking off. I'm not afraid to die, but afraid to live until then. It's not hard for you to guess what will happen next. Heartaches and pain, works upon godliness. Some don't know why them a live, that's why them have to hurt the flesh. But who are they? Tell me, what they represent. I struggle with fear as I experience. So them do them dirty work, to which I resent. And no one but them have a face the consequence. Them build walls instead of bridges, it's ridicule. Then worry to like a fool, but if I turn the wrong road, away I want to pull. Because the vessel of the iniquity never yet. I'm not sure if I live to see tomorrow. Living in this world of conflicts and sorrows. But this lay cold as gunmen strike bold. Yeah. E eccoci di nuovo con i compagni di Milano, ci sentite? Prova. Dario, ci sentite? C'è un problema. Pronto? Pronto? I compagni non ci sentono. Allora mandiamo un'altra canzone, intanto proviamo a ricontattarli. Pronto? Abbiamo riprovato a contattare i compagni di Milano. Ci sentite? No, evidentemente no. E intanto lasciamo concludere la traccia, ci More morality, no more, no more. Where black people them stifle, when them a shot the people them a kill them with poison. Can't tell me none, me see the conquering lion in the Bible. E pronto, Dario, Maria, ci sentite? Ancora no. All them orange and the brown, stumbling blocks will have to move. Come, we gon' mash them down, not loose. Deal with them rats because the food them come approve. Come, if we gon' mash them down, not loose. All them orange and the brown, stumbling blocks will have to move. Come, we gon' mash them down, not loose. Babylon, we mash them down. Can't this the Rasta man because him all his foundation rigid. Love and righteousness is it we use govern the village. All them a go on like them bad and them wicked things. Selassie go on the earth, so don't be stupid. Come we mash them down, not loose. All them a rings and a brown righteousness we use. Come we go mash them down, we can't lose. Prove them a prove, get a youth one clothes and shoes and food. Mash them down, hey Babylon, I tell you that I mash them down. Hey, little children, I say pay to honor your mother and your father. Tell them again, love you one another. Grace Selassie, I am grown in Addis Ababa. Second of November, 1930, Jaja Java. Mama, eat them up and make out a cassava. Big up the ghetto girl, Africa and Balaclava. Whoa, farmer, plant the food and stop us from starving. Just like in the holidays, jump off the pagan head and let it roll away. Listen to what I got to say, praise the king every day. Go back, we go mash them down, not loose. All them marines and the browns, Dublin blacks will have to move. Come, we go mash them down, not loose. Oh, deal with them rust because of who them come and prove me. I mash them down, not loose. No, no, no. Thank you. Allora, ci dispiace che alla fine non abbiamo potuto recuperare la connessione Skype con i compagni che insomma ci stavano raccontando la loro esperienza nell'ex-QM di Milano, ma possiamo dire insomma in maniera più che opportuna che sono stati molto esaurienti e diciamo il discorso si era interrotto un pochino repentinamente, mentre diciamo così si sottolineava come poi una rete di sia di realtà che appunto di studenti usino l'arma della solidarietà attiva e partecipata appunto per supportare uno spazio e soprattutto ecco magari proprio nel caso dell'ex QM ridargli vita, ridargli maggior forza insomma e rilanciarlo. E appunto a proposito di rilanci, così l'ex QM insomma, come diceva anche il compagno prima, non si è concentrata solo sulle attività che la riguardano un po' più prettamente, ma è uscita dall'università e proprio per questo uscendo dall'università ci porterà dentro la rivista letteraria, la nuova rivista letteraria, e ospitando un festival appunto dentro la statale il prossimo 16, 17 e 18 maggio, oltre chiaramente a continuare durante le settimane con tutte le attività che ci hanno già annunciato e le giornate di mobilitazione che comunque li hanno sempre caratterizzati. E adesso, rispettando le premesse insomma che Nicolas aveva fatto all'inizio, diciamo così, concluderà dando gli ultimi aggiornamenti e appuntamenti riguardo appunto le attività che svolge Ops subito dopo la canzone che stiamo per mandare. Things you do that tease and hurt me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of girl who gives up just like that. No, oh, oh, the tide is high, but I'm holding on, and I'm gonna be your. It's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. No, oh, oh, oh. Be Allora, sì, ricordiamo alcuni appuntamenti che ci saranno da qui ai prossimi giorni. Ricordiamo come già avevamo fatto prima, quindi ribadisco appunto che stasera sta continuando il presidio contro discariche e contro inceneritori, quindi stasera ci troverete su Via Ardeatina, chilometri 24 e 600. Ci sarà appunto un'assemblea prima di cena, poi una cena a prezzi popolari, come ho detto prima, e poi appunto lo spettacolo teatrale di Paolo Pescenan. A seguire ci sarà anche un DJ set, un po' di musica, una jam session, quindi partecipate numerosi al presidio che, come detto prima, continua da ormai una settimana. Dopodiché, quali sono i prossimi appuntamenti di occupazione precari studenti? Domani pomeriggio faremo a Grotta Ferrata il mercatino del baratto. Ricordo infatti che Ops appunto dall'inizio che porta avanti questa pratica da alcuni mesi porta avanti questa pratica del mercatino del baratto. Ogni due settimane ci trovate a Piazza Pia ad Albano, partecipiamo appunto al mercatino contadino di Piazza Pia, quindi una pratica, diciamo, concreta in qualche modo, che simbolica se vogliamo, ma estremamente concreta e anche utile, di dinamica che esce al di fuori delle logiche del mercato, che è quello che un po' accomuna questa esperienza e vuole portare avanti questa esperienza di Ops. Quindi domani saremo domani il mercatino di Albano salta per la festa patronale di quella di Albano, e quindi saremo il pomeriggio a Grotta Ferrata a Capodarco, durante parteciperemo quindi alla festa della decrescita. Domani poi ci sarà, è una giornata importante, domani è 12 maggio, e il 12 maggio del 77 veniva uccisa a Roma Giorgiana Masi. Perché veniva uccisa? Diciamo, ci troviamo appunto nel 77, dopo i processi appunto del marzo 77, ci furono delle manifestazioni il 21 aprile in cui morì un carabiniere, e quindi il governo Cossiga decise di vietare qualsiasi tipo di manifestazione, e quindi di stroncare così piedi e gambe a quello che era il movimento del 77. Il Partito Radicale decise in quella giornata di violare questo divieto, chiamando una manifestazione per la legge sul divorzio, e a quella manifestazione in qualche modo partecipò in massa anche appunto il movimento extraparlamentare, il movimento cosiddetto movimento del 77, per in qualche modo denunciare appunto la repressione, denunciare appunto questa scelta liberticida da parte del governo Cossiga, cioè quella di vietare qualsiasi tipo di manifestazione. Durante la manifestazione vi furono degli scontri gravissimi, sicuramente causati, come dimostrano diverse immagini, da infiltrati. C'è una delle immagini più famose, quella di un uomo che poi si scopre essere un agente di polizia, Giovanni Santoni era il nome, un uomo vestito come un comune manifestante che appunto la foto lo ritrae con la pistola in mano dopo aver sparato alla folla. Di fatto ci furono proprio degli spari verso la folla, vennero lanciate anche bottiglie Molotov eccetera, gli scontri furono durissimi, e in questi scontri perse la vita appunto Giorgiana Masi. Tra l'altro, come sempre, come per tutte queste stragi di Stato di quegli anni, diciamo, la verità ufficiale non è mai venuta a galla. Cossiga non ha mai parlato, però ci ricordiamo tutti come durante il movimento dell'Onda, quindi nel 2008, Cossiga rilasciò un'intervista nella quale, un'intervista rilasciata al quotidiano nazionale, nella quale suggeriva proprio l'uso della violenza nei confronti dei, dei manifestanti, in qualche modo ricordando e quindi ribadendo come sicuramente quella era una pratica che era già stata usata appunto negli anni 70 e purtroppo non solo. E che succede domani? Domani succede che una serie di sigle assolutamente diciamo del cattolicesimo più oltranzista, nonché alcune sigle fasciste, hanno deciso di indire una manifestazione a Roma, una cosiddetta, quella che loro chiamano Marcia per la Vita, quindi una manifestazione contro l'aborto e contro appunto quello che è un vero e proprio diritto che le donne in questo paese hanno conquistato. Per cui ci sarà, nonostante i divieti della questura, una manifestazione. L'appuntamento è alle 9 a Campo dei Fiori. Leggo il comunicato appunto che lancia l'iniziativa di domani. Dice: siete il marcio della vita, avete sbagliato giorno e epoca. Per 2 anni la Marcia per la Vita, indetta dall'oltranzismo cattolico, è stata contestata con azioni dimostrative che rivendicano l'autorizzazione di donne e soggettività LGBTQI. Questa volta hanno scelto il giorno sbagliato. Il 12 maggio Roma ricorda Giorgiana Masi, assassinata nel 77 a 19 anni. Dalle squadre speciali dell'allora ministro dell'interno Cossiga, durante il corteo che, sfidando il divieto a manifestare, celebrava il terzo anno dalla vittoria referendaria sul divorzio. Non accettiamo la provocazione di chi usa i bambini e la retorica della famiglia per legittimare politiche, azioni e discorsi che attaccano le nostre libertà e le nostre vite. Si tratta di bigotti che, nascondendosi dietro i sani valori della famiglia, appoggiano di fatto la violenza contro chi differisce dal loro modello. È ora che il familismo smetta di essere un modello per le politiche sociali. È ora di riconoscere e rivendicare il diritto ad essere persone libere, persone che scelgono con chi avere relazioni, se e quando avere figli e figlie. Lo scopo delle nostre vite non è formare l'ipocrita famiglia cattolica, una struttura utile solo a costruire ruoli, egemonie e a far sentire in colpa le donne che vogliono sottrarsi a situazioni di violenza, fino alle estreme conseguenze. Non autorizzeremo a parlare di vita chi marcia scortato da fascisti, portatori della cultura mortifera, della sopraffazione ed esecutori materiali di aggressioni e violente campagne discriminatorie. Rifiutiamo l'iconografia antiabortista imposta dal fanatismo cattolico, come rifiutiamo i dogmi di qualsiasi fondamentalismo religioso. Non siamo asserviti alla loro guerra santa. La Roma antifascista e antisessista il 12 maggio non permetterà che la memoria di Giorgiana Masi venga calpestata. La storia non si riscrive, non torniamo indietro sui diritti conquistati, anzi incalziamo. Giorgiana vive, un'idea non muore mai. Quindi l'appuntamento è domani alle ore 9 a piazza a Campo dei Fiori, quindi alla piazza centrale di Campo dei Fiori. Altro appuntamento che ricordiamo è quello che ci sarà sabato prossimo in piazza Genzano, un presidio contro la chiusura del consultorio di Genzano. Il 2 maggio noi di Occupazione per Precari Studenti, insieme al collettivo Femministenze e altre realtà come l'Assemblea delle Donne contro la chiusura dei consultori, abbiamo partecipato appunto all'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici del consultorio di Genzano, che rischia di essere chiuso. L'unico consultorio dell'ASL alla quale appartiene il nostro territorio, che a tutte le figure previste dalla legge per far funzionare appunto questo consultorio, che sono appunto l'ostetrica, l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale, il ginecologo. Quindi vorrebbero, e non solo questo, ma un consultorio che nasce nel 1944, è l'unico consultorio giovani di tutto il distretto ASL H2. Quindi secondo, e con la scusa dei tagli alla sanità, la dirigente l'ha spiegato bene, è colpa, ha detto, della spending review di Monti, con questa scusa e con questa vorrebbero appunto accorpare il consultorio di Genzano a quello di Ariccia. Di fatto diciamo, secondo la dirigente, così sarebbe migliorato e migliorerebbe il servizio. Di fatto questo non è vero, perché il consultorio di Genzano ha funzionato fino adesso molto bene, così come stava facendo, e quindi qualcosa che appunto né i lavoratori né le lavoratrici né i tanti utenti, ma tutta la cittadinanza di Genzano si dovrebbe opporre, perché appunto è un servizio pubblico che la legge prevede, che è stato nel passato, come dicevo prima per la legge sull'aborto, un diritto conquistato, e che quindi non possono toglierci con la scusa della spending review, la scusa della crisi. Anzi, forse quei dirigenti che si dicono addolorati proprio perché per questi accorpamenti dovrebbero, se veramente sono addolorati, fare un passo, magari, perché no, dire ok, siamo costretti a farlo, allora io non lo faccio e mi dimetto, piuttosto che chiudere un servizio pubblico come quello del consultorio di Genzano. Quindi ci saranno delle iniziative in settimana, e appunto sabato prossimo saremo in piazza a sensibilizzare la popolazione di Genzano sulla chiusura del consultorio giovani. Them think them reach the ultimate, yo, but them no reach nowhere yet. Oi, them get caught in the internet of society. I tell me them my intellect, them promote too much debt. Who no look and know, Jaja city, Jaja town, them a turn it in a bad man town. Oi, who no look and know, Jaja city, Jaja town, them a be turn it in a cowboy town. Oi, Marcus Gavison, 10 miles out of the city. Oi, it's a go get too shitty. One Miss Ajan amigo, one Miss Mitty, one all the shot amigo, one all the hitty. No for say them kill man without pity. Wrong kind of sip me, I'll go catch them a sippy. Chew them, licky licky them sicky. Rastafari, judgment we slew all. Yo, Jaja city, Jaja town, them a turn it in a cowboy town. Aye, look at them, bloody city, bloody town, turn it in a rude boy town. Aye, aye. Them nigga chat down in the east. Tell them fi hold the peace. We no want no more coffin, we no want no more eat. We life we are promote fi the ghetto youth seat. Life you know fi bridge, who no watch and know. Jaja city, Jaja town, them man fi town, it's in a dead man town. Aye, who no look and know. Giovinotti e giovinotte, anziani rocker e casalinghe disperate, siete tutti invitati a Ostia Palusa, 31 maggio, 1 e 2 giugno, ZK Squat, il grande festival dell'autogestione autoprodotta, il grande festival dell'autoproduzione autogestita, il grande festival Ostia Palusa, 31 maggio, 1 e 2 giugno, ZK Squat, milioni di gruppi, milioni di performance, milioni di autoproduzioni. Venite numerosi, accorrete. Ostia Palusa, 31 maggio, 1 e 2 giugno. ZK Squat. Tutte le info su ostiapalusa.acproject.org. Ostia Palusa è un festival autogestito delle autoproduzioni. Utilizzare senza cautela. Prima di procedere con l'assunzione, non consultare un medico e non seguire alcuna indicazione specifica. Autorizzazione ministeriale non concessa, tanto meno richiesta. www.ostiafarnesa.asproject.org. And our praises are to God. Quindi quello che abbiamo appena sentito è lo spottino che appunto è stato fatto da le compagne dello ZK Squat, che appunto pubblicizzava l'Ostiapalooza Do It Yourself Festival, che si terrà dal 31 maggio fino al 2 giugno. Un festival, come leggiamo sul sito, che è www.ostiapalooza.aciproject.org, è un festival autogestito dedicato alle realtà indipendenti e autoprodotte. L'idea è quella di costruire 3 giornate di concerti, performance e incontri all'interno di ZK Squat, spazio occupato, ci ricordano, nei pressi di Ostia, per promuovere e sostenere la musica e l'espressione in genere, che si muove nei circuiti alternativi a quelli soliti del business culturale. Il festival, articolato in 3 giornate, vedrà alternarsi concerti su 2 palchi, performance e ci sarà inoltre la possibilità di campeggiare liberamente in uno spazio appositamente allestito. Saranno presenti inoltre distribuzioni di materiale indipendente, autoprodotto, spazio cucina, bar ad oltranza, laboratorio erboristico, workshops, gite al mare e molto altro. Quindi noi come Radio Default parteciperemo attivamente alla costruzione di questo festival, ci interessa proprio perché è una radio questa nata proprio all'interno di un concetto di autoproduzione, di indipendenza, appunto non solo rispetto alla proposta musicale, ma anche rispetto al concetto di controinformazione. Quindi parteciperemo attivamente, saremo presenti con grandi sorprese all'Ostiapalooza Do It Yourself Festival, ricordo 31 maggio 2 giugno in quel di Ostia, allo ZK Squat. And our praises on to God. Give praise to Rastafari. And our praises on to God. Give praise to Rastafari. And our praises on to God. Quindi questa puntata di Ops Connecting Fights finisce qui, ci risentiamo sabato prossimo sempre alla solita ora, dalle 2:30 circa in poi. Oggi abbiamo iniziato con in netto ritardo, quindi abituatevi a questi ritardi. E, ci spostiamo quindi in quel del presidio, ricordo quindi il presidio via Ardeatina, chilometro 24650, ricordo lo spettacolo di Paolo Pescenanna dopo cena, ricordo la cena, ricordo l'assemblea che dalle 7 in poi ci sarà appunto nel presidio che abbiamo contribuito ad allestire insieme ai cittadini e ai militanti Noince, presidio quindi contro discarica ed inceneritore di Albano. Vi lascio con della musica, ci sentiamo sabato prossimo.